La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, ci sentiamo anche oggi e quindi ancora auguri per il Pasqua, il post-Pasqua in questo lunedì dell'Angelo 17 di aprile. E in questa giornata ancora di festa, una puntata dedicata a un approfondimento che trae spunto da un libro che a me è piaciuto molto e che io vi consiglio, perché è una ottima chiave interpretativa per capire quello che sta succedendo nel nostro paese, ma in tutto l'Occidente in realtà, dagli Stati Uniti all'Europa, e una chiave per capire non solo la politica italiana, ma quello che avviene tra pochi giorni al primo turno delle presidenziali in Francia, per capire meglio Trump e l'Europa. Perché? Perché questo libro ha un titolo molto chiaro: Sinistra e popolo, il conflitto politico nell'era dei populismi. Ed è articolato in realtà in quattro parti. L'editore è Longanesi, vi ripeto il titolo: Sinistra e popolo, il conflitto politico nell'era dei populismi. È un libro dedicato appunto alla comprensione delle ragioni per cui insorge il fenomeno dei movimenti politici cosiddetti populisti, di destra, di sinistra e anche trasversali. Vedremo che cosa le differenzia nei paesi avanzati dell'OCSE, in Europa, negli Stati Uniti, ed è l'editore Longanesi. Sono 280 paginette, perché il libro è articolato in realtà in quattro parti. Nella prima parte, le prime 60 pagine, fitta, c'è una premessa, per così dire, di tipo epistemologico, perché parte dal capire, dal tentare di identificare come si sono definiti a sinistra rispetto alla destra, sinistra e destra. Lo fa dopo aver passato in esame alcune delle definizioni storiche, incardinando l'analisi su un libro che ha costituito e costituisce ancora per la sinistra italiana, per il PD, un punto di riferimento fisso, cioè Destra e Sinistra, scritto nel 94, poco prima della vittoria di Berlusconi, da Norberto Bobbio, e gli mette a fianco, per capire quale sia la definizione più utile di sinistra e destra, Hayek. Mentre la valutazione di Bobbio è una valutazione molto valoriale e quindi identifica la libertà uguale e quindi la miglior sintesi possibile con la socialdemocrazia, Hayek, sia pur scrivendo 15 anni prima di Bobbio, guarda al futuro. Per Hayek il metodo liberale vede in realtà tanto a sinistra quanto a destra dei rischi da affrontare, ed è molto diverso quindi dalla bipartizione valoriale positivo-negativo che Bobbio eterna e che è tipica, per così dire, dell'impostazione della sinistra, che avrà poi un'esplosione negli anni di Berlusconi, ma resta ancora adesso questo atteggiamento per il quale gli avversari sono eticamente inferiori e sono più spesso nemici che avversari. E questa è la prima parte, per così dire, teorica. C'è una seconda parte poi nella quale si analizza che cosa capita ai paesi avanzati dagli anni 70 fino a oggi nelle loro economie. Quindi gli anni 70 significa dal momento massimo, dal momento nel quale era il culmine la crescita media oltre il 4% di questi paesi, dal dopoguerra in avanti, con l'arrivo allo sviluppo dei paesi che erano più arretrati, come nel nostro caso l'Italia. Negli anni 70, l'inconvertibilità aurea del dollaro, la prima crisi del petrolio nel 73, la seconda crisi nel 79, determina un cambio radicale attraverso i cambi fluttuanti, l'inflazione da shock dell'offerta, del quadro della crescita precedente. La crescita inizia a scendere nei paesi avanzati. Negli anni, alla fine degli anni 70, negli anni 80, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, si avvia una reazione agli eccessi dello Stato, che negli anni 70 era ulteriormente cresciuto keynesianamente, e quindi sono gli anni della Thatcher e di Reagan. Dall'inizio degli anni 90 il ritmo di crescita che altri paesi avanzati avevano iniziato a perdere diventa ancora più accentuata questa perdita. L'Italia dal 92 in poi, insieme alla Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Germania arriveranno alla fine degli anni 90 con la crisi finanziaria americana nel 2001 e così via, ma insomma la crescita diminuisce sempre più, dal 4% negli anni 70 si passa al 2%. E poi i 10 anni della globalizzazione ancora più forte dal 2001 alla crisi del 2008 e poi la crisi del 2008 che per alcuni paesi, tra cui l'Italia, significa una doppia recessione, perché dopo quella immediata della crisi dei subprime americani, noi dopo il 2011 con la crisi sovrana dell'euro abbiamo ancora un 2012 e 2013 durissimi e stentiamo a fare l'1% ancora adesso. La descrizione di questi anni di mutazione strutturale della crescita media dell'Occidente è necessaria per capire, terza parte, che cosa sono davvero e che caratteristiche hanno e come sono cresciuti dagli anni 70 in poi, quando iniziano a manifestare i movimenti populisti nei diversi paesi. Populisti più di destra, se sono contrari a un tema come la libertà delle persone, della globalizzazione, cioè l'immigrazione. Populisti più di sinistra, se sono contrari alla libertà dei capitali. E quindi nel nord Europa forze nazionaliste che iniziano a prendere sempre più voti alle elezioni contro gli immigrati, in Grecia come in Spagna fenomeni come Podemos e Tsipras che sono invece a matrice di sinistra, ma insomma il fenomeno è sempre più incentrato sugli effetti della globalizzazione e il quadro politico si riallinea tra coloro che temono fondamentalmente due cose, cioè la perdita di reddito dei ceti e delle specializzazioni produttive nei paesi europei più esposti alla concorrenza diretta di prezzo dei paesi meno avanzati, che grazie alla globalizzazione invece vedono innalzare il loro reddito medio pro capite e vedono diminuire fortissimamente le divergenze della distribuzione del loro reddito rispetto a quelle precedenti, mentre invece nei paesi avanzati la perdita di crescita dei decenni precedenti, accentuata poi con le recessioni, la perdita di reddito pro capite, la divergenza tra chi perde di più con la globalizzazione e chi perde di meno e i fenomeni migratori di terrorismo spiegano, e questa è la terza parte del libro, il fiorire e la crescita dei consensi a destra come a sinistra o in maniera trasversale come in Italia, il Movimento 5 Stelle, il Movimento Populista, ma trasversale secondo questa definizione, di coloro che sono le vittime della globalizzazione e vogliono frenare alcune delle libertà di circolazione di beni o persone, tutte o almeno alcune. Quarto punto, si arriva a rispondere alla domanda del titolo: perché la sinistra, che era partita dalla superiorità etica bobbiana, comunque si trova in enorme difficoltà? Vedete le difficoltà terribili dei socialisti francesi in Francia, le difficoltà terribili in questi ultimi anni dei socialisti in Spagna, la quasi scomparsa dei socialisti in Grecia, la leadership controversa, ma una leadership di sconfitta di Corbyn in Gran Bretagna, la vittoria contro Hillary Clinton di Trump. Ecco, e qui c'è la conclusione, perché la sinistra ancora non ha capito che quando ha recitato la parte della globalizzazione negli anni 90, in realtà non ha dismesso la sua superiorità etica e su alcuni temi, come l'immigrazione, continua a parlare una lingua per la quale perde inevitabilmente, radicalmente, consenso e credibilità. Allora, la mia sintesi, spero che non sia troppo scorretta, per così dire, e a questo punto però io non parlo più perché parla l'autore. Grazie di essere con noi in questo lunedì di Pasquetta al professor Luca Ricolfi, che insegna all'Università di Torino ed è autore di questo libro, Sinistra e Popolo. La sintesi era corretta? Perfetta. No, perfetta non direi. Perfetta non direi, perfetta non direi. Io, se lei è d'accordo, partirei dalla fine. Lei fa una specie di, non è una profezia, ma lei dice: a seconda di quanto hanno perso i diversi paesi, è chiaro che l'Italia tra quelli che hanno perso di più, purtroppo noi siamo insieme alla Grecia, siamo in fondo alla graduatoria, la risposta a questo fenomeno può, lei dice, può venire da pezzi di sinistra e pezzi di destra che sappiano coniugare la difesa dell'apertura ma anche con alcune chiusure necessarie a ciò di cui la gente ha paura. Ho capito bene? La reazione può essere diversa da paese a paese, perché ci sono paesi che hanno avuto soprattutto problemi di economia e altri che hanno avuto soprattutto problemi di immigrazione, di terrorismo. Però sono questi due ingredienti del cocktail esplosivo. specificamente del nostro paese è interessante perché abbiamo tutti e due i fenomeni, cioè abbiamo un populismo di destra e un populismo di sinistra alimentati l'uno dall'immigrazione, dal problema irrisolto dell'immigrazione, nel modo disordinato in cui l'immigrazione avviene, e l'altro dalle sofferenze determinate dalla crisi. Io considero tutto sommato Grillo più un populista di sinistra che un populista senza collocazione, per adesso. Anche se, non so se avete notato, nell'ultimo periodo Grillo è molto più attento al tema migratorio, in questo senso si sta spostando a destra, con la resistenza dei suoi deputati, dei suoi senatori, che sono molto più pro-immigrati di quanto sia lui stesso. Quando lei fa l'analisi nel corpo centrale del libro di ciò che ha portato dagli anni 70 in poi e poi tra il 2008 e il 2016 all'esplosione evidente nei diversi paesi con forme diverse, percentuali diverse, ma percentuali anche molto forti, tanto da scardinare sistemi politici tradizionali, insomma, il fenomeno populista, lei presenta i risultati di alcune ricerche che sembrano abbastanza controintuitive. Per esempio, una di queste dice: uno potrebbe pensare che i populisti sono più forti laddove meno forte è il filo europeismo, invece è l'esatto contrario. Io in effetti per un certo tempo io stesso ho pensato che tra populismo e antieuropeismo vi fosse una sorta di legame logico o sostanziale, e poi però pensando ad esempio quello che è successo in America con Trump, questo libro è stato scritto prima della vittoria di Trump, e devo precisare, quasi tutto è stato scritto prima della Brexit e prima della vittoria di Trump. E allora, vedendo cosa succede in America, non si può dire che prima, però allora due volte non c'entra proprio niente. Due volte complimenti, perché chi lo legge capisce che lei non avesse molti dubbi sul fatto che Trump avesse il vento nelle vele, per quello che lei spiega, per come sa interpretare gli elettori della Hillary che non votano Hillary perché Obama non ha mantenuto le promesse, e soprattutto perché parlano un linguaggio di coloro che non hanno il conto negativo della globalizzazione. Quindi chiusa parentesi. Sì, il caso di Trump e della Brexit per me è significativo comunque, cioè io avevo fatto questa analisi in un caso pensando che potesse vincere Trump, nell'altro caso sulla Brexit ero più incerto, però il punto è questo, che quando i sondaggi ti dicono che metà dell'elettorato è per la Brexit, metà dell'elettorato è per Trump, metà dell'elettorato in Austria è per Hofer, no? Questo candidato Norbert Hofer che era considerato un mezzo fascista dai media, non è poi molto importante che alla fine ci abbia il 50% più uno o abbia il 50% meno uno. Il fenomeno macroscopico che per un sociologo è rilevante è quanta gente fornisce il suo consenso a questo tipo di soggetti. Poi al politologo interessa chi vince le elezioni, ma a me interessa la pancia del paese. In qualsiasi modo fosse andata la competizione in America, la competizione per la Brexit nel Regno Unito o quella in Austria, il dato di fatto restava quello: metà della gente vota per personaggi che i media considerano impresentabili. Lei a un certo punto scrive: quando torna al punto la sinistra che ha smarrito la capacità di guardare mentre il populismo gettava le radici e iniziava a crescere, lei dice: ci sono tre fatti di un certo interesse. Primo, in molti paesi avanzati, ceti popolari, spesso confinati nelle periferie delle città e nelle campagne, non votano più i partiti della sinistra riformista, socialisti, socialdemocratici, laburisti. Secondo, la sinistra riformista raccoglie soprattutto il voto dei ceti medi urbani, dei dipendenti pubblici, dei professionisti del mondo della cultura e dello spettacolo. Più avanti spiegherà poi che, appunto, tra dipendenti pubblici e dipendenti dei settori più esposti alla concorrenza sono anche la parte, per così dire, di piramide sociale che si è avvantaggiata nella globalizzazione, quella che ha il segno meno negativo per effetto della concorrenza di puro costo e non di valore aggiunto per effetto della globalizzazione. Poi dice: terzo, il popolo vero e proprio preferisce i partiti populisti ai partiti della sinistra riformista che pretendono di essere i naturali rappresentanti. La domanda che le faccio è: si è capito un po' che Renzi ci è arrivato a questo, perché ha cambiato completamente impostazione, adesso è contro l'Europa, fatico a dire chi sia più contro l'Europa, il deficit, il debito, i limiti di tetti da rispettare tra lui, la destra e lo stesso 5 Stelle, ma basta per dare una risposta a questo misunderstanding che va avanti da molti anni, secondo lei? No, perché il problema di fondo, come lo vedo io, è che la sinistra da una trentina d'anni ha proprio cambiato le sue tematiche, le sue priorità. Se fossimo in epoca di marxismo imperante, diremmo, useremo questa terminologia, diremmo che la sinistra si occupa della sovrastruttura e non della struttura. Cioè io ho fatto un elenco di una quindicina di temi di cui si occupa la sinistra, dall'ambiente, i diritti dei gay, l'indulto, le coppie di fatto, l'eutanasia, il testamento biologico, ce n'è tantissimi, che sono tutti di tipo non strutturale e non economico. Allora, questi sono temi che scaldano il cuore dei ceti medi, degli intellettuali, degli artisti, ma la gente che vive nel mondo delle cose materiali, che si fa ancora un discreto mazzo per sbarcare il lunario, non è interessata a questo genere di temi, li considera secondari, può avere delle opinioni, ma non sono la cosa importante. Ora, la sinistra da 30 anni si occupa di queste cose qua, e non lo dico solo io per la sinistra italiana, lo dicono anche i politologi americani, che hanno rimproverato proprio l'era democratica dei Clinton, eccetera, di aver trasformato i democratici in un partito che non si occupa più dei problemi basici. Allora, in questa situazione, chi si occupa dei temi fondamentali, diseguaglianza, povertà, deindustrializzazione, globalizzazione, eccetera, ricevi voti. Questo è quello che mi sembra sia successo nello spostamento dell'elettorato verso i partiti populisti come Grillo e la Lega in Italia, ma tra l'altro un fenomeno vecchio, perché che gli operai magari con la tessera della CGIL votassero Lega è una cosa beh, che è una cosa che era già evidente, sì, iniziò a diventare evidente negli anni 90. Allora, un minuto di pausa per il traffico e poi torniamo col professor Luca Ricolfi a parlare di questo bellissimo libro, Sinistra e popolo con conflitto politico nell'era dei populismi, Longanese Editore. Un minuto traffico adesso. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati per parlare di questo libro che inquadra il fenomeno populista italiano in Europa, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in fenomeni reali, cioè la perdita progressiva nei decenni del tasso di crescita medio e gli effetti della finanziarizzazione e della globalizzazione, che sono effetti asimmetrici. Noi abbiamo un coefficiente di Gini, e cioè un problema di redistribuzione che peggiora dei redditi, mentre il resto del mondo invece con la globalizzazione li ha migliorati in maniera spettacolare complessivamente, tranne alcune eccezioni, ma a livello planetario è così. È un problema della sinistra che in questo non è riuscita a sbarazzarsi della propria superiorità etica. Un pezzo di questo discorso è quello su cui lei torna sia all'inizio che alla fine del libro, cioè il politicamente corretto, professor Ricolfi. Io mi sono reso conto, soprattutto quando ho cominciato a riflettere sugli Stati Uniti e sul fatto che l'Europa c'entrava abbastanza poco col populismo, mi sono reso conto che non bastano i due ingredienti che io ho messo nel mio discorso, cioè la crisi economica e l'immigrazione. C'è anche una reazione, a mio parere, al politicamente corretto, cioè la virulenza con cui soprattutto negli Stati Uniti è emerso Trump, secondo me è anche una reazione della gente semplice, comune, che ha problemi materiali quotidiani, all'ossessività con cui la sinistra predica quel che dobbiamo dire, il modo in cui lo dobbiamo dire e di conseguenza quello che dobbiamo pensare. Allora, tutte queste regole politicamente corrette a un certo punto sono venute a stridere con la gravità dei problemi sostanziali. Cioè, noi ci occupiamo del doppio cognome e abbiamo 3 milioni di disoccupati. La sinistra sembra non avere le priorità giuste, perché molte delle cose di cui la sinistra si fa paladina sono giustissime, sacrosante. Il problema sono le priorità. Quando tutte le cose importanti vengono lasciate in sordina o affrontate malamente, allora c'è una reazione. E mi riferisco anche ai maldestri tentativi di riconversione di Renzi. Renzi ha fatto un po' di piroette ultimamente, direi già da prima del referendum, quando ha cominciato ad attaccare la Merkel, eccetera. Però la politica di Renzi è rimasta una politica che guarda sostanzialmente ai ceti medi. Cioè, come avrebbe, se lui avesse avuto a cuore i ceti più bassi, i veri deboli, non faceva il bonus da 80 euro per chi ha già un lavoro e magari supera come reddito familiare ogni soglia di povertà. Si sarebbe occupato di chi non guadagna abbastanza da poter godere dello sgravio fiscale, cioè quello che tecnicamente si chiama il problema degli incapienti. E infatti adesso lo paga. Quel problema degli incapienti, che allora non venne affrontato, farà vincere le prossime elezioni a Grillo, perché il reddito di cittadinanza è questo. Il reddito di cittadinanza, impropriamente definito reddito di cittadinanza, è un tentativo di risolvere il problema che Renzi ha lasciato insoluto. Del resto, quando fra pochissimi fummo all'inizio a dire, invece di buttare palanche di miliardi nella decontribuzione a tutti i contratti, riservali solo a quelli aggiuntivi rispetto alle piante organiche precedenti, e il resto concentralo su, per esempio, gli incapienti, cioè lui non quello che avevamo proposto come fondazione dei vicini, esatto, cioè di mettere una selettività non ci ha dato retta. Però qui c'è un problema fondamentale, forse più forte che in altri paesi, sicuramente più forte che in Germania, sicuramente più forte che nel Regno Unito, dove insomma i Tories, i conservatori, per così dire, hanno preso la sfida degli UKIP e l'hanno fatta propria. Ma qui non abbiamo neanche a destra qualcuno che segua Hayek, cioè c'è il problema della sinistra, quello di cui si occupa prioritariamente il suo libro. Ma alla fine, se Grillo sembra avere un'autostrada di fronte, è perché anche a destra la sua ricetta, per cui ci deve essere a destra o a sinistra, o meglio, se da tutte e due le parti, qualcuno che è capace di difendere l'apertura motore del mondo, ma insieme di dire alcuni no e di intervenire sui problemi per cui in Italia abbiamo bassa produttività, troppo Stato, eccetera, la destra non mi pare che ci sia, o lei vede il contrario? No, purtroppo la destra è in uno stato patetico e deplorevole, non è... Anche le poche idee che hanno non le comunicano, e quindi effettivamente l'autostrada per i grillini è aperta. A me colpisce ad esempio che l'idea di un'imposta negativa non sia ancora emersa in nessun modo nel dibattito pubblico, anche perché ho sentito qualche tempo fa Parisi dalla Gruber. In realtà, a mio parere, uno come Parisi è più di sinistra di quanto sia Renzi, se per sinistra intendiamo occuparsi dei deboli. Lui disse in quella trasmissione molto chiaramente che testamento biologico e dintorni possono anche essere importanti, ma non c'è partita rispetto ai problemi strutturali di povertà, disoccupazione, esclusione che ha l'Italia. E questo dovrebbe fare una sinistra, invece lo sentiamo debolmente enunciare da Parisi e enunciare in modo solo ideologico da Orlando e da Renzi, perché o dicono che hanno sbagliato molto, non dico tutto, ma molto in questi anni e che la politica la vogliono rovesciare, oppure uno pensa che si presentino in continuità con quello che hanno fatto. Tra l'altro, tornando al reddito di cittadinanza, le risorse stanziate dal PD sono un decimo circa di quelle che intende stanziare il Movimento 5 Stelle, quindi se ci si mette su quel terreno lì direi che si perde senz'altro. Quindi secondo me il populismo ha la strada spianata in questo momento. Vedremo naturalmente che cosa accadrà, però cari ascoltatori, se c'è una ragione per la quale io mi sento di dire che questo libro va letto, è perché premette a tutta questa analisi fatta numeri alla mano, sia del come è cambiata la crescita e chi ne ha pagato il conto nei paesi avanzati nei decenni, sia della nascita, lo sviluppo e il successo dei paesi populisti nei diversi paesi europei, però fa una premessa che è quella che ho richiamato. Hayek, serve più Hayek contro la destra e la sinistra che si considerano incardinati come punti di superiorità etica l'uno verso l'altro. Non è vero che il liberale è un conservatore, ma in realtà combatte contro i conservatori che ci sono sia a sinistra che a destra. E questo, se andate a vedere le liberalizzazioni in Italia, il no a Uber, il no alle liberalizzazioni sugli atti notarili, sulla fascia C dei farmaci, eccetera, eccetera, troverete in Parlamento che la pensano allo stesso modo. E io di questo ringrazio Luca Ricolfi, perché decenni fa anche lui non la pensava così, ma l'Italia lo ha messo di fronte a delle novità che descrive ogni volta nei suoi libri. Sinistra e Popolo, Longanesi Editore, Luca Ricolfi, grazie e buon lunedì di Pasqua a tutti. Ancora appuntamento domani mattina con Attenzione 2, a me Alessandro Milan alle 8:20 qui su Radio 24.